Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Siamo sempre a San Pietro, siamo sempre davanti alla grande basilica che è quest'anno particolarmente visitata dai pellegrini in occasione dell'anno santo. Questa chiesa ha una storia straordinaria perché venne costruita in realtà ai tempi di Costantino, quindi siamo intorno al IV secolo d.C., per segnare il luogo dove si trovava tradizionalmente la tomba dell'Apostolo Pietro. Costantino costruì una basilica in stile costantiniano, cioè una grande basilica con le colonne, con cinque navate, era un edificio già grandioso allora, che poi venne fortificato perché si trovava lontano dal centro di Roma e nell'alto Medioevo era sostanzialmente in pericolo perché si assaltavano le basiliche per rubare le reliquie. Nel 1400 questa vetusta basilica, che immaginate dipinta da Giotto, quindi aveva capolavori su capolavori che nei secoli si erano accumulati, si decide di raderla al suolo. Solo un papa può decidere una operazione del genere, per costruire una nuova basilica. Viene incaricato Donato Bramante, che al principio del Cinquecento imposta quello che noi oggi sostanzialmente vediamo. Tra l'altro il progetto era di costruire non una basilica lunga con le navate come era la basilica costantiniana, ma un edificio a pianta centrale con una grande cupola sovrapposta e sotto, sapete che cosa, la tomba del papa committente Giulio II della Rovere, che certo non era una persona modesta. Questo progetto verrà modificato nel corso del 1500. La fondazione del 1506, il Papa si calò in un buco di 6 metri, andò a posare la prima pietra sotto e 120 anni dopo, nel 1626, venne inaugurata. E venne cambiata, perché? Perché intervennero altri architetti, per esempio Michelangelo, che modificò la cupola che Bramante aveva in mente. Bramante aveva visto il Pantheon, voleva rifare la cupola del Pantheon, ma Michelangelo, che era fiorentino, aveva visto la cupola di Brunelleschi e fece una sua interpretazione della grande cupola di Firenze per coprire la tomba di San Pietro.